Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail alla quale scrivere: un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Questa volta ve lo segnalo, come dire, in maniera appassionata, perché tra i link segnalati troverete anche una cosa molto interessante, un po' forse sottaciuta dagli organi di informazione, ma non per questo meno importante, vale a dire uno studio, direi un dossier di allerta, mi piacerebbe quasi definirlo, che è stato predisposto da un osservatorio per l'informazione, Ossigeno per l'informazione, il cui presidente, a cui capo, c'è un collega giornalista, un quirinalista, il quirinalista dell'ANSA, Alberto Spampinato. Alberto Spampinato è un consigliere anche della Federazione Nazionale della Stampa e appunto è a capo di questo osservatorio. Perché è importante questo osservatorio, di cui potete trovare all'interno appunto del mio blog i lavori finora svolti? Perché in questo momento, forse mai come in questo momento negli ultimi anni, se di abuso si può parlare nei confronti dell'informazione, è sicuramente non nei confronti di coloro i quali sono oggetto della critica dei giornalisti, ma proprio nei confronti dei giornalisti stessi. Forse mai come in questo momento i giornalisti sono sotto attacco. Io non vi invito alle armi, polemicamente parlando, dialetticamente parlando, no. Vi invito soltanto, cari radioascoltatori, a riflettere sullo stato della libertà di informazione in questo momento in Italia, della libertà di stampa. Per farlo noi avremo diversi ospiti, a partire proprio dal collega Alberto Spampinato, che ringrazio per il suo intervento. Buongiorno Spampinato. Buongiorno a voi. Allora, Spampinato ha avuto quest'idea sicuramente perché si è reso conto anche all'interno della Federazione Nazionale della Stampa delle difficoltà del momento, ma anche perché ha un pregio indiscusso, quello di aver scritto uno splendido libro che si chiama C'erano bei cani ma molto seri, storia di mio fratello Giovanni ucciso per aver scritto troppo. È stato editato da Ponte alle Grazie. Ve lo consiglio, è un libro che io ho letto pagina per pagina, meraviglioso, perché lì lui racconta la storia di suo fratello, un giornalista, un giovanissimo cronista dell'Ora di Palermo, ucciso a 27 anni da un alone che io definisco di mafia e da un alone di servizi deviati, non servizi segreti, ma intendo dire proprio un alone deviato che porta alla morte di tantissimi cronisti o all'isolamento e poi magari alla morte di tantissimi cronisti. Ma per parlare del diritto di informazione in Italia, partiamo proprio da un frame del libro del collega Spampinato. La mattina di venerdì 27 ottobre, ha raccontato mia madre, presi un'altra telefonata di Campria. Erano le 9:30. Giovanni aveva mal di testa ed era ancora a letto. Ma andò al telefono lo stesso. Presero appuntamento per le 17. Subito dopo telefonò Emanuela e convinse Giovanni ad accompagnare lei e sua madre a Catania. Giovanni non ci voleva andare. Diceva che aveva quell'appuntamento. Poi si lasciò convincere. Prima di partire chiamò Campria al telefono per avvisarlo che per quell'ora non sarebbe stato di ritorno. Ma non riuscì a trovarlo. In ufficio gli dissero che era in ferie. Chiamò casa sua e lasciò detto alla madre che sarebbe stato disponibile per l'incontro in tarda serata, al rientro da Catania. Infatti, quella sera, appena rientrato, si incontrarono. Quello si presentò con due pistole e lo uccise. Nessuno sa cosa successe veramente quella notte. Le uniche cose certe sono che Giovanni rientrò da Catania dopo le 10 di sera, che a casa nostra non c'era nessuno e che un'ora e mezza dopo, crivellato di proiettili, fu portato all'ospedale civile di Ragusa, dove giunse senza vita. Ecco Alberto, quello che abbiamo sentito è appunto un passo del tuo splendido libro. La prima domanda che volevo farti era questa qui. Perché hai impiegato così tanto tempo prima di metabolizzare la morte di tuo fratello, vittima di questo alone mafioso che pervade la Sicilia e l'Italia, e dunque perché soltanto ora, a distanza di così tanti anni, hai deciso di dedicare questo libro alla memoria di tuo fratello? Ma credo che mi sia successo la stessa cosa che succede a tutte le vittime di gravi delitti. Innanzitutto c'hai una difficoltà ad accettare la tua condizione di vittima. Pensi che gli altri vengano tutti in tuo soccorso, ti aiutino. Io ad esempio ho sperato per tanti anni che questa storia la raccontasse qualcun altro, come scrivo nel libro, anche per spiegarla a me stesso, perché nessuno la sapeva spiegare, sapeva dire cos'era successo esattamente. E alla fine mi sono rassegnato e ho cominciato a fare questo lavoro, che è stato anche una forma di elaborazione del lutto, prendere coscienza, e nel fare questo lavoro ho capito, perché io nel frattempo ero un giornalista che da più di 30 anni faceva il giornalista, mentre allora ero un ragazzo di 22 anni che studiava ingegneria. Allora, con gli occhi del giornalista, ho fatto una specie di inchiesta e ho capito cose che allora non avevo capito. Non eri in grado di capire. Ecco, quello che a me... La cosa più essenziale, voglio dire, che ho capito è che questa vicenda di mio fratello, che nel 1972, è emblematica e vale la pena di essere raccontata, perché spiega anche come avviene oggi che tanti giornalisti siano minacciati, finiscano sotto scorta, subiscano violenze, siano censurati. Ecco, su questo poi ci torniamo. Io volevo però sottolineare all'attenzione dei radioascoltatori una parte del sottotitolo del tuo libro, vale a dire mio fratello Giovanni ucciso per aver scritto troppo. E ti chiedo questo, Alberto, ovviamente ci diamo del tu perché siamo colleghi, questo lo dico anche nel rispetto dei radioascoltatori. Oggi in provincia di Ragusa, una provincia siciliana, quindi dove sicuramente la pervasività della mafia c'è anche se non si vede, si scrive ancora e si parla troppo? I giornalisti hanno il coraggio di farlo oppure no? Sì, ci sono anche oggi dei giornalisti coraggiosi, e sono dei giornalisti che rischiano, sono una minoranza. Purtroppo c'è una situazione per cui per certi versi sembra che il tempo non sia passato. Però siccome le generazioni si sono avvicendate e quelle di oggi per fortuna hanno una mente più libera, c'è un po' più libertà di informazione di allora, ma solo un poco, perché io ricordo l'impressione che mi fece 2 anni fa, quando mi fu comunicata con dovizia di particolari e anche con dei documenti che lo provavano, una notizia clamorosa che il procuratore della Repubblica in carica allora, adesso nel frattempo è cambiato, che era lo stesso giudice che aveva svolto le prime indagini, era sotto processo perché 50 cittadini di Ragusa lo avevano denunciato come depistatore delle prime indagini sul delitto di cui si occupava mio fratello. Quindi questa notizia non la pubblicava nessuno e tutti i giornali avevano difficoltà a pubblicare questa assolutamente notizia. Purtroppo sono moltissime le notizie che i giornali hanno difficoltà a pubblicare. Ricordo ancora una volta che Giovanni Spampinato era un cronista coraggioso in una provincia difficile quale quella di Ragusa, e quando è morto aveva soltanto 27 anni. Questo voglio ricordarlo. Caro Alberto, spesso quando vengono in mente i nomi dei giornalisti o degli scrittori minacciato si pensa e si parla solo di Roberto Saviano, troppo spesso di Roberto Saviano. In questa trasmissione, nella mia trasmissione, in 2 anni ho ospitato la voce di moltissimi giornalisti invece minacciati soprattutto in provincia. Ecco, dal tuo osservatorio privilegiato che sta nascendo ora, che sta raccogliendo informazioni sui giornalisti che sono minacciati o vivono sotto scorta o hanno difficoltà, quanti sono i colleghi in questo stato di difficoltà nello scrivere o nel parlare liberamente? Guarda, sono sicuramente centinaia. Noi non siamo in grado di dare un numero preciso e aspettiamo la risposta anche del ministro dell'Interno Maroni all'interrogazione che è stata presentata proprio adesso all'inizio della legislatura, riprendendo i contenuti del nostro rapporto per avere un quadro preciso. Noi adesso disponiamo e questo diciamo è proprio il termometro della situazione, di notizie frammentarie ricavate dai documenti di solidarietà degli ordini dei giornalisti, dei sindacati regionali e da notizie di stampa. Però andando in giro come noi facciamo ad incontrare dei colleghi e raccogliendo segnalazioni, scopriamo che ci sono molti casi in cui i giornalisti minacciati sono in una condizione di soggezione tale che non possono neppure fare sapere cosa succede loro. Assolutamente, purtroppo è una condizione drammatica, reale. Io ringrazio Alberto Spampinato, giornalista, quirinalista dell'ANSA, per la sua prima testimonianza. Domani continueremo sul filo di questo ragionamento andando a sentire la voce di uno di questi giornalisti che si trova in una situazione molto particolare, e sentiremo la sua voce, ma la voce anche del contraltare, vale a dire l'amministratore politico che gli ha fatto causa. Ma per scoprirlo vi do appuntamento ovviamente a domani. Ringrazio in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.